il pensiero musicale contemporaneo tra presente e memoria. Incontri con i compositori del nostro tempo, di Emanuele Pappalardo. anni, milanese, con una copiosa produzione musicale che forse solo in questi ultimi anni si va facendo più rada, e una altrettanto straordinaria vocazione didattica che lo ha accompagnato per tutta la vita, fin da quando, sedicenne, impartiva le prime lezioni di pianoforte e che lo ha visto maestro di nomi fra i più prestigiosi e noti del mondo musicale contemporaneo, da Muti a Scellì, Pollini, Ceccato, Ughi, Gentilucci, Corghi, Degrada e tanti altri. E Bruno Bettinelli, che incontriamo nel suo studio milanese. Ma lasciamoci introdurre a questo colloquio con il maestro da poche righe tratte da una recente intervista, nelle quali è chiaramente espressa quella vena comunicativa che caratterizza il suo linguaggio musicale. Ho sempre ritenuto poco utile o addirittura controproducente quella moda, chiamiamola così, che da qualche tempo pretende di imporre al pubblico le presentazioni illustrative dei pezzi nuovi, farcite di dati tecnici e di locuzioni astruse, tali da generare in realtà una gran confusione nelle idee di chi, non addetto ai lavori, si accinge all'ascolto. Penso che, una volta esposti pochi, semplici e chiari termini esplicativi che siano in grado di offrire un sintetico orientamento di massima, sia giusto lasciare che la musica parli da sola. La mia preoccupazione di sempre è quella di poter comunicare direttamente, tramite un discorso fatto di suoni, con le persone che ascoltano, le quali, pur non sapendo nulla o quasi di tecniche musicali, siano in grado di dirmi alla fine: sì, è difficile, però questo brano ci ha dato delle sensazioni, ci ha preso e lo abbiamo potuto seguire nelle sue linee generali. Questo è il miglior risultato cui possa aspirare il compositore di oggi. Infatti, quando hanno eseguito a Sanremo il mio concerto per violino orchestra, eseguito magistralmente da Cusano e diretto da Urbini, alla fine sono venute tre signore anziane, tre vecchiette, è il caso di dire, e scusi maestro, dicano, sa, noi vorremmo dirle che noi la musica moderna non è che l'amiamo molto e non la capiamo, però malgrado tutto questo pezzo ci ha affascinato, ci ha preso e quindi noi la ringraziamo e io le avrei abbracciate. E per me questa è stata una delle critiche migliori che abbia mai avuto in vita mia. Quindi la necessità di comunicare, come tratto distintivo del far musica di Bruno Bettinelli, una necessità che il maestro rivendica per qualsiasi autentica espressione artistica. Ma cerchiamo di avvicinarci alla personalità e alla musica di Bettinelli. I miei genitori non avevano la minima intenzione di farmi diventare musicista, mi davano soltanto lo studio del pianoforte così come usava l'ora, come educazione generale che avevano tutti i giovani. E entrato poi in conservatorio con l'esame d'ammissione in composizione mi ci sono trovato dentro anche per merito di una mia insegnante di pianoforte che mi aveva preso molto ben volere e così sono entrato col maestro Paribeni, che è stato un grande maestro oltre che un uomo di grandissima cultura, era stato critico musicale anche sui vari quotidiani e col quale poi sono entrato in rapporti di amicizia proprio come quasi padre e figlio, perché oltretutto avevamo l'hobby della montagna tutte e due e andavamo spessissimo nelle nostre amate Dolomiti a fare le arrampicate in roccia, e che questo era uno dei miei hobby più importanti, che vale ancora tuttora. Passato poi nel corso superiore con Renzo Bossi, che era figlio dell'organista Marco Enrico Bossi, mi è stato molto utile soprattutto per l'insegnamento della strumentazione, dell'orchestrazione, e ho finito il diploma, mi sono diplomato nel 1937 insieme ad altri diplomi, pianoforte, musica corale, polifonia vocale, eccetera. Il fratello di mio papà, Angelo Bettinelli, è stato un grande maestro di canto, era il maestro di fiducia di Toscanini, poi lui era amicissimo di Puccini, di Giordano, aveva fatto il sostituto alla Scala quando nei primi del Novecento hanno dato la prima rappresentazione di Salomè diretta da Strauss. Anzi, c'è un episodio che ricordava sempre in questo senso. Dunque, era in platea accanto a Strauss e guardavano insieme la partitura perché Strauss desiderava certi particolari scenici curati in modo particolare. E un bel momento lo zio, preso da entusiasmo alla vista di questa partitura, dice: "Ma maestro, come fa lei a scrivere queste meravigliose partiture?" E quello, così, con la sua aria un po' sorniona, un po' bonaria, gli dice: "Ah, avec la patience." Al che lo zio naturalmente non era pienamente d'accordo, perché altro che la pazienza ci vuole per scrivere una partitura del genere. Vabbè, ma in ogni modo questo è un episodio carino che ricordava volentieri. E quindi la musica era già in famiglia. Per di più, mio papà, pittore, e mia mamma molto, molto sensibile anche in fatto di musica, eccetera, insomma, creavano in partenza un ambiente che era particolarmente favorevole perché io potessi incanalarmi, malgrado i miei genitori non avessero avuto intenzione di farlo all'inizio, incanalarmi nel campo della musica. Il nome di Bettinelli comincia ad acquistare una certa notorietà con la Sinfonia da Camera del 1938, un lavoro che si sottrae a qualsiasi influsso romantico o neoclassico, anche se certi stilemi stravischiani e indemitiani sono presenti. Direi che la Sinfonia da Camera è ancora piuttosto orientata verso Indemit, direi. Perché allora naturalmente Indemit imperava molto più di Bartok, che è stato scoperto da noi in un tempo successivo. Stravinsky e Indemit, insomma, erano i nostri punti di riferimento e come giovani non potevamo non avere dei punti di riferimento, perché nessuno nasce assolutamente originale, vero? Fin dagli inizi bisogna essere figli di qualcuno. Quindi la Sinfonia da Camera, che è appunto il mio primo lavoro abbastanza importante, insieme alle due invenzioni per archi, la Sinfonia da Camera appunto non è un neoclassico, insomma è un po' indemitiano, è una politonale, un campo di politonalità, certe volte anche con qualche excursus tonale, ma insomma è ancora un po' su una via di mezzo. E il finale di questa Sinfonia da Camera è il corale ostinato, che poi ho strumentato per grande orchestra, in quanto poteva stare benissimo come pezzo a sé. È un pezzo che appunto è basato su di un basso ostinato, come dice il nome, e su di un continuo crescendo con l'aggiunta di entrate, di strumenti che non vengono più eliminati, si sovrappongono fino a provocare un tessuto, uno spessore, è vero, dove il tema principale viene elaborato per moto contrario, per aumentazione, per diminuzione, eccetera, con tutti gli artifici del contrappunto. Infatti io passo per essere un contrappuntista, anche se questo poi non è del tutto vero. E quindi questo corale ostinato poi avrà molto seguito anche come pezzo a sé stante, tanto che verrà dato anche alla Scala, lo dirigerà Muti, lo dirigeranno in moltissimi altri. Dopo questo primo importante lavoro, la Sinfonia da Camera del 1938, da cui abbiamo ascoltato il finale, il corale ostinato nella direzione di Riccardo Muti, la produzione musicale di Bettinelli si intensifica e, parallelamente alla musica strumentale, si dedica alla composizione di numerose liriche per canto e pianoforte e per coro. La fase creativa del sofferto periodo bellico si conclude con i tre canti per coro e orchestra del 1945 su testo dello stesso autore. Nel 1947 Bettinelli vince il premio Angelicum con La Messa da Requiem e il secondo premio Angelicum. Il primo lo aveva vinto nel 1942 con La Fantasia e Fuga su temi gregoriani. Il 1948 vede Bettinelli vincitore del premio Borgonuovo con Le Cinque Liriche di Montale. E Montale, Quasimodo, Ungaretti sono tra i poeti preferiti dal maestro. Ma per Ungaretti Bettinelli avrà sempre una particolare attenzione. L'ammirazione per questo poeta risale alla mia giovinezza. Già allora, nel 1938, avevo realizzato per coro a quattro voci tre liriche, e precisamente Nascita d'Aurora, Dove la luce e O notte. Come musicista ho sempre sentito l'estrema interiorità di questa poesia in forma corale, quasi non bastasse una voce singola ad esprimere la sua ampiezza di respiro, la profondità dei concetti e soprattutto l'universalità dei temi che coinvolgono continuamente l'uomo, inteso nella piena accezione del termine. Quali ragioni possono affascinare il compositore che partecipa intensamente a quelle stesse emozioni che avevano spinto il poeta a tracciare sul foglio bianco l'essenza evocativa della loro entità? Molti sono i motivi e si aggiungono a quelli appena accennati che concernono il valore intrinseco dei contenuti. Sono motivi, direi, collaterali, tecnici, comunque importantissimi per consentire di tracciare un segno musicale efficace, il più possibile aderente al senso a volte vago, interlocutorio, a volte preciso di un termine, al suo accento, alle scansioni di un verso considerato nella sua totalità e al tempo stesso nel suo particolare, al colore e alle sfumature di un significato riposto, di un'allusione appena adombrata o di un'invettiva urlata a piena voce. Thank you. era un estratto dalla cantata Sono una creatura, su testi di Ungaretti per coro e orchestra, che Bettinelli scrive nel 71. Ma arretriamo di un ventennio, periodo in cui Bettinelli si accosta, anche se fugacemente, al serialismo con il trio per flauto, violoncello e pianoforte, un lavoro del 1951. Uno dei tempi e il finale di questo trio ha un'impostazione seriale. Io ho sempre, da tempo ormai, usavo il totale cromatico, quindi la dodecafonia era il mio modo di esprimermi, ma non seriale, la dodecafonia libera, cioè il totale cromatico, ripeto, che mi dava e mi dà tuttora la più ampia libertà di scelta. Però appunto mi sono avventurato un po' anche nella serialità, nella dodecafonia di stretta osservanza schoenbergiana, dalla quale però mi sono distaccato presto perché mi sentivo un po' prigioniero di questa serie, che offre comunque molte, molte possibilità, siamo d'accordo, con le trasposizioni e poi col modo di essere trattata per moto contrario, retrogrado, come tutti sanno. Però per me era sempre un po' vincolante questo fatto di dovermi attenere sempre a qualche cosa di preciso, precostituito, mi dava un po' fastidio, e quindi a un certo momento ho abbandonato la serialità e mi sono di nuovo ritirato sul campo dell'anarchia, diciamo così, atonale, è vero, che però dà appunto una libertà che mi è congeniale e della quale non posso fare assolutamente a meno. Io non ho avuto possibilità di andare a Darmstadt perché un po' non volevo, ma non so, forse ho sbagliato, perché se non altro mi sarebbe servito per essere in contatto con tanti altri giovani o meno giovani e per aprire magari un po' i miei orizzonti, ma questa mia necessità di essere, non dico isolato, perché non è bello essere isolato e non mi piace, sono molto, molto cordiale, molto a contatto sempre con tutti, ma il timore di dover sottostare a qualche regola, a qualche direttiva accademica, che poi diventerebbe appunto accademica, pure perché tutti i sistemi nuovi, rivoluzionari, finiscono sempre col diventare accademici anche loro, è vero, sempre stato in passato e sempre sarà ed è attualmente. E quindi questa mia, direi, diffidenza per quello che potrebbe essere la riunione di persone in circoli un po' ristretti, come poteva essere Darmstadt, eccetera, mi ha un po' trattenuto dall'andarci. Sono sempre stato al corrente di tutto quello che succedeva, delle correnti varie, però ho preferito stare per conto mio. Parlando dei tre ricercari e toccata per pianoforte, un lavoro del 1947, Bettinelli afferma che tutta la sua musica è una sorta di ricercare in continua trasformazione. Cioè, le proporzioni formali devono autogenerarsi mediante lo sviluppo di un incipit che, subendo appunto continue variazioni e trasformazioni, viene a ritrovarsi completamente trasfigurato e tuttavia connesso ai contenuti che proponeva nella sua prima presentazione. Questo mio modo di portare avanti un discorso musicale, e non è che abbia una particolare personalizzazione, perché partendo dalla concezione di sviluppo di Beethoven e successivamente poi di Brahms, eccetera, il fatto di partire da un iter iniziale per poi svilupparlo con tutte le speculazioni immaginabili possibili che possono derivare da un piccolo inciso, da una semifrase, da una intervallistica, eccetera, vero? Non è niente di nuovo sotto il sole, però usando un linguaggio basato sulla atonalità, non più sulla tonalità, come appunto succedeva specialmente in Brahms, il quale Brahms per il suo modo di sviluppare era anche ammiratissimo da Schoenberg, Questo modo di sviluppare con l'impiego della atonalità dà la possibilità di creare queste piccole cellule che poi vengono sviluppate, vengono ingrandite, vengono rimpicciolite, vengono date con tutte le speculazioni del contrappunto, come dicevo prima, per moto contrario, per aumentazione, per diminuzione, retrogradate, eccetera, eccetera, che costituiscono un discorso che è portato avanti appunto con il mestiere tra virgolette, con M maiuscola anche per di più, che il musicista deve avere, altrimenti è inutile che cominci a pensare minimamente di scrivere, però costituiscono appunto un discorso musicale che ha nella sua continua variazione interna, ha però una continuità, una logica formale che alla fine si riscopre che c'è tutto un discorso musicale fatto appunto di suoni in libertà, ma nello stesso tempo vincolati. È un po' difficile spiegarla la cosa. Comunque i risultati che ho ottenuto ritengo che siano abbastanza validi, in quanto la coerenza di un pezzo dal principio alla fine c'è. Tanto che quelle tre signore, quelle vecchiette, sono venute a dirmi che avevano capito, non avevano capito niente, ma insomma avevano capito. Ecco, questa sembra una contraddizione di termini, ma insomma la musica deve dare questi risultati. Alla fine la gente non capisce granché perché non è addentro alle segrete cose della tecnica, però alla fine dice sì, il discorso l'ho seguito e ci ho capito qualche cosa, anche se è tutto così difficile, è tutto così complesso. Sul finire degli anni 50, Bettinelli apre quella fase che potremmo definire come una parentesi teatrale, che comprende la produzione di tre lavori, Il Pozzo e il Pendolo, dal racconto di Alain Poe, del 1957, ma che per volontà dell'autore viene rappresentata soltanto 10 anni dopo, La Smorfia, del 1959, un lavoro che però lascia insoddisfatto Bettinelli, il libretto è di Riccardo Bacchelli, a cui Bettinelli sarà legato da profonda amicizia, e infine Countdown del 1969, un'opera che risente degli eventi politico-sociali di quegli anni. Dunque il libretto è nato proprio come conseguenza dei movimenti giovanili del 68, il famoso 1968, che ha sconvolto un po' tutto il mondo della gioventù, non solo in Italia, ma un po' dappertutto. Il libretto di Madao Diaz, che è stato anche il regista del Pozzo e il Pendolo, l'argomento tratta di un giovane che, essendosi suicidato per mancanza di fiducia in se stesso, nelle cose del mondo, eccetera, subisce a posteriori un processo dove lo si condanna naturalmente. Nelle scene che seguono si vedono un po' tutti gli episodi che lui ha dovuto vivere fino ad arrivare alla conclusione tragica del suicidio. E l'opera è scritta per un organico orchestrale di soli 15 strumenti, voci soliste, coro e piccolo corpo di ballo, ed è stata diretta in modo egregio alla Piccola Scala da Nino Sanzogno. Il lavoro era stato criticato nel libretto perché come musica aveva avuto un buon successo. La critica è per metà consenziente e per metà negativa sui contenuti del libretto, che taccia di pessimismo, in quanto questo giovane appunto dimostra di non avere sufficiente forza d'animo in mezzo a tutto questo movimento protestatario, eccetera, eccetera, forza d'animo per affrontare quelle che sono le autentiche realtà della vita, insomma, non ci si può tirare indietro spaventati da una minima contrarietà che si possa incontrare, che si incontrano ad ogni piede sospinto, perché allora dovremmo suicidarci tutti. Se penso a quello che ha passato la mia generazione con la guerra, eccetera, eccetera, sarei morto 1000 volte. Quindi, evidentemente, alcuni dei critici non capiscono che si tratta di un processo a posteriori, proprio contro il giovane, il cui comportamento viene giudicato negativamente e quindi condannato dagli stessi autori in forma inequivocabile per chi sappia scrutare attentamente all'interno della vicenda. Basterebbe a dimostrarlo, ove occorresse, una citazione finale di un coro che canta le parole del Cantico delle Creature di San Francesco, dove è di un anziano, di un vecchio, che lo esorta a trovare coraggio per affrontare la situazione, non lasciarsi andare, non arrivare appunto al gesto disperato. E diciamo piuttosto che i fatti realizzatisi sulla scena, come descrizione di un deprecabile caso anomalo, purtroppo oggi trovano a distanza di 20 anni un tragico riscontro nella cruda realtà che vede ogni giorno tanti giovani fragili e molto simili al protagonista, vittime delle stesse depressioni, della droga, delle conseguenze che ne derivano. Quindi è stata una triste intuizione involontariamente anticipatrice quella di questo countdown. La musica di Bettinelli non si fa mai espressione di un impegno politico diretto. Io avevo fatto le mie tristi esperienze durante tutto il periodo precedente, che va dal ventennio alla guerra, prima la guerra di Abissinia, dove ho rischiato di essere coinvolto, perché ero sotto le armi delle corsellerie ufficiali proprio allora, poi con la guerra di Spagna e poi con la seconda guerra. Quindi io avevo già avuto modo di subire tutte le conseguenze negative di tutti questi periodi, è vero, in modo tale che poi, arrivato a questo momento del 68 e successivi, non avevo proprio più voglia di partecipare, è vero, direttamente con la mia musica, in quanto l'avevo già fatto precedentemente con i tre canti, con tutto quello che avevo potuto esprimere prima durante quei periodi terribili, che a confronto dei quali questi qui erano rose e fiori. Quindi, francamente, la mia musica non ha più niente a che vedere dopo Countdown con tutto quello che è stato il movimento giovanile, eccetera, eccetera. Lo sento dentro di me, lo sento ancora ad oggi. Ho avuto dei momenti in cui in conservatorio siamo stati anche invasi. Ho avuto l'invasione in classe, con l'imposizione di scendere a prendere il caffè intanto che gli allievi dovevano andare a fare la riunione di gruppo, eccetera. Cosa che io non ho accettato, quella di andare a prendere il caffè, perché dico, io in classe mia faccio quello che voglio. E siamo stati anche assaliti. E Benedetti Michelangeli Junior, Umbertino, che era mio allievo, è vero, si è anche difeso e gli hanno fatto anche un occhio nero. Questo per dire, insomma, queste erano le ultime code di questo periodo. Non possiamo trascurare, parlando con e di Bruno Bettinelli, della sua attività didattica, che tanta importanza ha avuto nella sua vita, e non solo per il lungo periodo dedicato all'insegnamento in conservatorio, ma anche per i risultati ottenuti, dato che, come si diceva poc'anzi, Bettinelli è stato il maestro di molti nomi di spicco nel mondo musicale contemporaneo. Per quanto riguarda l'insegnamento della composizione, io ho sempre considerato necessario, fondamentale, l'impostazione sulle basi classiche dell'insegnamento, cioè l'armonia, il contrappunto, la fuga, la strumentazione, corredate naturalmente da analisi continue, approfondite, estese, su tutto quanto riguarda lo scibile musicale, dal canto gregoriano fino a Stockhausen, a Boulez. Però non ritengo sia possibile prescindere, come dicevo prima, dallo studio delle cose fondamentali, che sono appunto il contrappunto, la fuga, l'armonia, eccetera. Insistendo subito da parte mia, dicendo al ragazzo, allo studente, guarda che di queste cose poi ti devi assolutamente dimenticare, perché con queste non si scrive musica oggi. Però lo studio dell'armonia, del contrappunto, della fuga e di tutto quello che è inerente a questi primi anni di studio sono quelli che ti formano le basi, ti formano le ossa, sono i piloni che stanno sottoterra ma che ti sostengono poi l'edificio che tu costruirai secondo un linguaggio tuo personale, a seconda delle tue possibilità, delle scelte, del tuo indirizzo estetico. Perciò senza prescindere minimamente da questo studio, contemporaneamente ho sempre cercato di stimolare gli allievi, quelli che vedevo che avevano una certa inclinazione per la composizione, a scrivere anche al di fuori, analizzando per esempio Bartok, Prokofiev, Stravinsky, eccetera. Li stimolavo a scrivere secondo quei modelli, parlo proprio dei primissimi anni dello studio, affinché cominciassero a mettere il capino fuori da quello che è l'ovatta dell'armonia tradizionale, del contrappunto tradizionale e della fuga tradizionale. Quindi portare avanti il discorso su due binari in questo senso, quello classico e quello già proiettato verso un futuro che poi potrà evolversi a seconda della maturità raggiunta dall'allievo. Il linguaggio musicale di Bettinelli è in fondo rimasto fedele alle premesse iniziali, anche se ovviamente il suo iter artistico non vi è rimasto ancorato. Se si dovesse cercare un momento in cui questa lenta e costante modificazione subisce una svolta, anche se a largo raggio, tale momento coinciderebbe con le varianti per orchestra. Sì, le varianti, che mi pare sono del 70 e sono dedicate a Muti, che era stato da poco, si era diplomato con me in composizione, costituiscono una certa svolta, non si può nemmeno dire una svolta, è una continuazione di un cammino iniziato da tempo, è vero, che si indirizza verso un orizzonte ancora più largo e che servirà da punto di partenza verso i lavori successivi, le sinfonie, le alternanze, i contrasti, il quarto concerto per orchestra e altri pezzi per orchestra, per piccola orchestra, per grande, eccetera, lo studio per orchestra, il quadruplum e via dicendo. Le sono idealmente dedicate a Brahms semplicemente perché dopo poche battute dall'inizio, è vero, sotto la tensione degli archi acuti, è vero, si sentono dei ripetuti colpi di timpano che possono ricordare, volutamente naturalmente, l'inizio della prima sinfonia di Brahms, autore che io amo moltissimo. E quindi è stato una specie di omaggio così fuggevole, però la musica non ha niente a che vedere con qualche cosa che possa riferirsi a Brahms, se non quegli sviluppi di cui parlavo prima, quelle microstrutture che appunto anche Brahms aveva, dopo Beethoven, aveva continuato appunto a sviluppare in senso più, naturalmente, più aggiornato, e che è quello che io considero appunto la base della mia musica, sviluppo di microstrutture continue, alternate, variate, eccetera, che però servano a creare un discorso con un capo e con una coda logica. Queste varianti appunto che Muti dirigerà alla Scala e al Maggio Musicale Fiorentino con l'Orchestra di Filadelfia, riprese poi da Aldo Ceccato, un altro mio carissimo allievo, che le eseguirà moltissimo un po' da tutte le parti del mondo. Costituiscono appunto una specie di svolta a largo raggio, indirizzata verso altri lavori. Queste varianti sono un coacervo di varianti, lo dico appunto, ripeto il titolo stesso che lo suggerisce, di variazioni, di invenzioni nuove che da questo momento in poi porto su un piano addirittura esasperato, per modo di dire, esasperato in modo che non venga meno alla logica di un discorso musicale appunto coerente e non matto. Thank you. Thank you. poche battute iniziali dalle varianti per orchestra, un lavoro del 1970 che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Massimo Pradella. La mia evoluzione è stata appunto molto molto graduale, ecco, si è realizzata attraverso una continua macerazione, una continua ricerca dentro me stesso, ma che non mi consentiva di abbandonare certi punti fermi dove io assolutamente non potevo dai quali non potevo venir meno, ecco. Cioè la coerenza del discorso, la logica, soprattutto la necessità di comunicare qualche cosa, di essere sempre su un livello di possibilità comunicativa con chi mi ascolta, perché io non posso sopportare le turris e burne dove dice se capisci bene, se non capisci sei un cretino. No, non bisogna venire meno nella fiducia sulle possibilità di comprensione del pubblico. Il pubblico ha una sua anima di gruppo che difficilmente sbaglia nel giudizio, vabbè, salvo i clamorosi fiaschi che poi sono rientrati e sono diventati altrettanto clamorosi successi, ne sappiamo tutti. Ma il pubblico è meno stupido di quanto non si pensi, e quindi questa anima di gruppo fa sì che singolarmente, preso uno per uno, capiscono poco o niente, messi tutti insieme acquistano una forza di comprensione che difficilmente sbaglia. Ora, questa possibilità di comunicare con questa anima di gruppo del pubblico, secondo me è una cosa basilare, se no che ci stiamo a fare, a cervellarci, a scrivere la musica e a roderci così nella ricerca per poi fare delle cose che il pubblico non ama, non apprezza, va via annoiato e guarda l'orologio non vedendo l'ora di andarsi. Io a questo proposito ho un episodio, faccio sempre ridere i miei ragazzi, dico: mettetevi in fondo alla sala dietro le spalle del pubblico, guardate la testa del pubblico, le teste del pubblico. Quando continuate a vedere le teste ferme, le nuche immobili, tutto va bene. Se cominciate a vedere i nasi di profilo, addio, vuol dire che la vostra musica o quella che sta a sentire annoia. Ecco, questa è la mia teoria del naso, una teoria naturalmente scherzosa, tanto per sorridere un pochino anche quando si parla di cose serie. Ma che posizione assume Bettinelli nei confronti dell'ondata di recupero che ormai da un decennio interessa sì la musica, ma la problematica la si può riscontrare in quasi tutte le manifestazioni del pensiero artistico e creativo in generale? Quando si arriva a un cage, dove vuole andare oltre? Questo è un muro contro il quale certe estreme avanguardie sono andate a sbattere e adesso naturalmente tornano indietro perché il rimbalzo è inevitabile. Un bel momento. Perché tornano indietro? Perché si sono accorte che è necessario comunicare quello che io dico, predico sempre, è necessario comunicare, l'ho appena detto, vero? Il pubblico vuole andare a sentire qualche cosa, allora perché c'è della gente che ucciderebbe il padre e la madre per farsi eseguire in pubblico e poi disprezza il pubblico e dice tanto quello non capisce niente, ma allora hai tanto da fare se poi lo disprezzi questo pubblico? Allora scrivi invece per qualche cosa, con qualche cosa che il pubblico possa gradire, possa amare un bel momento, no? E questo finalmente l'hanno capito. Io sono contento di essere sempre stato, beh, diciamo la via di mezzo che è considerata borghese, vero, con disprezzo, perché la via di mezzo oggi come oggi, se non si è a un estremo a destra o a sinistra, si è considerati borghesi. Beh, viva la faccia del borghese. Io mi sento borghese in quanto mi sono sempre premurato di comunicare qualche cosa, appunto come ho già detto prima, al pubblico. Quindi il compito del musicista, il compito dell'artista, del pittore, dello scultore, eccetera, eccetera, è quello di creare delle emozioni, delle sensazioni, del qualche cosa che domani possa lasciare una traccia, un germe, che poi possa essere raccolto da altri e via, così passare da mano a mano come la fiaccola delle Olimpiadi. Se viene a mancare questa catena di continuità, di discorso, di modo di pensare, eccetera, eccetera, si cade nell'arido, nel non comunicativo e quindi, secondo me, nell'inutile, nell'inumano. Io sono troppo umano per non considerare per non amare il mio prossimo e non cercare di dire qualche cosa che possa essergli utile, che possa sollevarlo anche per 5 minuti dalle angosce giornaliere che non mancano mai nella nostra vita tribolata del passato, del presente e purtroppo anche del futuro. Il nostro incontro con Bruno Bettinelli volge al termine, ma non possiamo concludere senza aver almeno menzionato il quarto concerto per orchestra del 1988, ultimo, almeno fino ad ora, grande lavoro orchestrale del maestro. Ne ascolteremo in chiusura, tra poco, qualche battuta nella interpretazione di Aldo Ceccato. È un po' il compendio di tante cose che ho fatto in precedenza, è una specie di riassunto. Infatti io considero, data anche l'età che mi ritrovo, considero che sia forse l'ultimo lavoro per grande orchestra che scrivo, oltre il quale non mi sento di andare, appunto anche perché è un po' un riassunto di tutto quello che ho fatto per l'orchestra, e così una summa di situazioni che tendono però anche a essere espresse più chiaramente, con maggior serenità. Per esempio la Sesta Sinfonia ha come sottotitolo Drammatica. È vero, la mia musica ha sempre una tensione piuttosto sul drammatico, ma non con intenti descrittivi, con intenti di un programma voluto, così, perché c'è una tensione drammatica dovuta dal nostro modo di vivere, dal comportamento della società di oggi, da tutto quello che succede, che è sempre così drammatico. Quindi la musica è un riflesso di questo qualche cosa, ma lontano da me l'idea di un programma qualsiasi, perché io non ho mai scritto musica programma. È vero, nei poemi sì, o un poema sinfonico giovanile quando ero ancora allievo in conservatorio, ne parlo del 34 l'altro ieri. E quindi niente, è insita una tensione che deriva dalle tensioni della nostra vita. E questo quarto concerto, che è il mio ultimo lavoro, appunto, queste tensioni vengono un po' allentate, c'è maggior disponibilità verso un discorso più cordiale, meno nevrastenico. Era la seconda puntata del ciclo di Emanuele Pappalardo, Il pensiero musicale contemporaneo tra presente e memoria, dedicato a Bruno Bettinelli. Si conclude così questa puntata di antologia di domenica 18 novembre, durante la quale avete ascoltato, nella prima parte, il secondo incontro con Raffaele La Capria, che sarà ospite di antologia ancora per 2 domeniche, a partire dalle 14.10 fino alle 17.30 circa. Quindi avete ascoltato la 10ª puntata del ciclo di Guido Barbieri, Lo spirito e la lettera, e per finire, nella seconda parte, la seconda puntata del ciclo di Emanuele Pappalardo, dedicato alla musica contemporanea, dal titolo di Pensiero musicale contemporaneo tra presente e memoria. Giorgio Niso, Andrea Damascelli, Mirella Fulvi e Fabio Novelli, che ci ha assistito per la parte tecnica, vi salutano e vi danno appuntamento domenica prossima.